Letture di Radio 24. In Georgia, un'arzilla vecchietta, scavando con una vanga alla ricerca di rame, ha tranciato un cavo in fibra ottica, disconnettendo centinaia di migliaia di utenti internet della stessa Georgia, Armenia e Azerbaigian. 5 ore di blackout che mostrano quanto le tecnologie siano sempre più fragili nonostante la loro crescente complessità. Nei paesi dell'ex Unione Sovietica il furto di cavi di rame in disuso è pratica diffusa. Perciò non dovrebbe stupire più di tanto la notizia che un'attempata signora georgiana è stata arrestata e poi rilasciata in considerazione dei suoi 75 anni per aver scavato nei pressi di Tbilisi in cerca del minerale. La vera notizia, tuttavia, riguarda il motivo per cui la colpevole è stata subito individuata. L'arzilla signora, ignoriamo il suo nome, ma i media locali l'hanno battezzata la hacker della vanga, ha scavato così energicamente da tranciare un cavo in fibra ottica, con la conseguenza che centinaia di migliaia di utenti internet in Georgia, Armenia e Azerbaigian sono rimasti per 5 ore senza connessione. Ad attribuire un significato vagamente inquietante a un episodio apparentemente banale, ancorché curioso, è il fatto che si tratta dell'ennesima conferma che alla crescente complessità dei nostri sistemi tecnologici si accompagna un'imprevedibile, e talvolta catastrofica, fragilità. Un portavoce della società che gestisce l'infrastruttura danneggiata ha affermato che il cavo era ben protetto e che a causare il disastro potrebbero essere state le piogge che hanno eroso il terreno, rendendo possibile l'involontario sabotaggio della nonnina. Il fatto è che quella degli eventi eccezionali e imprevedibili è una giustificazione che suona sempre meno convincente. Come facevamo a prevedere lo tsunami, dicono i manager della TEPCO per difendersi dalle accuse di aver provocato il disastro di Fukushima. Già, ma perché hanno costruito le centrali a 2 passi dall'oceano? Certo, il disastro provocato dalla hacker della vanga non ha causato vittime umane, ma impressiona il fatto stesso che il gesto di una vecchina possa avere gli stessi effetti della decisione di spegnere internet da parte di un regime totalitario. È lei la responsabile del danno? Quante transazioni economiche sono state ostacolate dal blackout? Oppure l'impresa, che non ha protetto adeguatamente il cavo? Se la nostra vita dipende sempre più dall'efficienza di sistemi tecnologici complessi, l'imprevedibilità è un lusso che non possiamo più permetterci. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Tecnologie più complesse ma più fragili, la lezione della nonnina hacker, pubblicato dal Corriere della Sera di domenica 10 aprile, a firma di Carlo Formenti. Letture di Radio 24. L'affollamento delle prigioni californiane è arrivato ad un livello elevatissimo, al punto che i tribunali potrebbero arrivare ad ordinare la liberazione di 40.000 carcerati. Questo, naturalmente, crea non poche preoccupazioni ai cittadini, ma verrà ben accolto dalle holding di prigioni private, che sperano in un aumento dei profitti grazie a questa crisi. Un incubo incombe sul futuro della California e non si tratta né di un terremoto né di uno tsunami. Quest'anno 40.000 carcerati rischiano di essere rimessi in libertà per ordine dei tribunali. Le prigioni californiane sono talmente sovraffollate, sporche e pericolose, ha sentenziato la Corte Suprema della California un anno fa, da infliggere ai condannati una punizione esagerata e crudele, in palese violazione dell'ottavo emendamento della Costituzione americana. I cittadini californiani tremano, accusano le istituzioni di incompetenza, ma la colpa di questa ingestibile situazione è anche loro. 17 anni fa hanno deciso in un referendum di combattere il crimine con le pene più severe della nazione, cioè raddoppio della pena al secondo reato e 25 anni di galera automatica al terzo reato, qualunque esso sia. Le condanne automatiche hanno snellito le procedure giudiziarie e, di conseguenza, il numero di condannati è salito a un ritmo 3 volte superiore a quello della popolazione, mentre il numero di nuove prigioni non è cresciuto di pari passo. Nel frattempo, le finanze pubbliche sono peggiorate drasticamente e il risultato è che i 164.000 carcerati della California sono stipati in galere disegnate per ospitarne 80.000. Il tasso di suicidi è il doppio della media nazionale e ogni 8 giorni un carcerato muore per l'inadeguatezza delle strutture mediche e psichiatriche. La situazione è raccapricciante. I prigionieri sono ammassati tutti insieme nelle palestre, nelle biblioteche, nelle aule, senza spazio e senza privacy. Per non parlare di chi ha problemi psichiatrici e finisce in isolamento perché nessuno sa cosa fare, dice il professor Craig Haney dell'Università of California di Santa Cruz. Dopo 20 anni di proteste, c'è voluto un ordine dei tribunali per costringere lo Stato a fare qualcosa e i tribunali fanno sul serio. Nel gennaio 2010 i giudici hanno dato 2 anni di tempo alla California per abbassare il tasso di sovraffollamento delle carceri dal 200 al 137%. Ma se l'ordine non sarà rispettato, le porte delle prigioni si spalancheranno nel gennaio 2012, fra 9 mesi. Il governatore Jerry Brown si sta arrabattando per trovare una soluzione tampone al colossale problema e spera, invano secondo gli esperti, che la Corte Suprema questo giugno annulli o sospenda la sentenza. La polizia si sta preparando invece all'arrivo di un'ondata di criminalità senza precedenti. Il tasso di recidivismo in California è del 70%. Solo un individuo sembra veramente soddisfatto di questa drammatica crisi: Damon Hininger, amministratore delegato della più grande holding di prigioni private del paese, la Correction Corporation of America. CCA. Hininger, quarto nella classifica Forbes dei migliori manager d'America sotto i 40 anni, sa che la crisi delle prigioni californiane si tradurrà in un aumento del fatturato e dei profitti per la sua azienda. La CCA e altre società private già ospitano circa 8.000 carcerati californiani, il 5% del totale, in strutture in Arizona, Louisiana e Mississippi. E ora si aspettano arrivi in massa a partire dall'anno prossimo perché il ricorso alle carceri private è il rimedio più rapido e meno costoso. Il ricorso alle prigioni private è una pessima soluzione perché i carcerati finiscono a 1.000-2.000 km da casa, non ricevono più visite dei familiari e al rilascio hanno difficoltà di reinserimento, dice il professor Haney. Quello di cui ha bisogno la California sono riforme serie, per esempio l'abrogazione della condanna automatica a 25 anni al terzo reato, investimenti in programmi di recupero, riabilitazione e qualificazione professionale per offrire opportunità di reinserimento dopo la scarcerazione e l'abolizione del carcere per i reati minori. Per 20 anni la mentalità prevalente è stata quella di sbattere tutti in gabbia e buttare via la chiave. E con che risultato? Il crimine è in aumento, il recidivismo è in aumento e i criminali vengono trattati come animali, dice Haney. È ora di cambiare strategia. Avete ascoltato la lettura dell'articolo «La crisi in California soffoca anche le carceri» di Daniela Roveda, dal Sole 24 Ore di giovedì 31 marzo. Fratelli coltelli fin da bambini? Secondo uno studio dell'Università di Cambridge è salutare. Litigando si matura, quindi genitori, lasciateli fare. Stanno imparando come comportarsi in società. Insultarsi in pubblico come gli ex Oasis Liam e Noel Gallagher, oppure odiarsi cordialmente in campo come le tenniste Venus e Serena Williams. I fratelli coltelli hanno una marcia in più. Più litigano, si sfidano e competono l'uno con l'altro, più imparano. La rivalità tra minore e maggiore è una benedizione, sostiene una ricerca dell'Università di Cambridge in Gran Bretagna. È bene che i genitori lo sappiano adesso, che le vacanze di Pasqua si stanno avvicinando e che senza la scuola si avrà tanto, troppo, tempo libero. Se i vostri pargoli si accapigliano, praticano la lotta libera sul pavimento o si rubano i giocattoli a vicenda, lasciateli fare. Perché stanno imparando come comportarsi in società. Stanno apprendendo come esprimersi emotivamente e come affrontare le future relazioni interpersonali. Cuscinate e pizzicotti sono una scuola di vita. E chi ne beneficia? Soprattutto il fratello minore, ha scoperto lo studio condotto dalla dottoressa Claire Hughes, che ha monitorato da vicino per 5 anni i fratelli, a partire dai 2 anni di età, di 140 famiglie inglesi. L'esperta di psicologia in età evolutiva e la sua equipe hanno sottoposto le piccole cavie a una serie di test. Dopo aver analizzato i dati, i ricercatori britannici sono arrivati a una conclusione certa. Quando il più piccolo raggiunge l'età di 6 anni, il suo livello di comprensione sociale e di adattamento ai diversi contesti ed ambienti è alla pari di quello del fratello o della sorella più grandi. Ed è probabile che da adulto sarà più popolare e avrà una carriera di maggiore successo rispetto al primogenito. Avere una relazione poco cordiale con il sangue del proprio sangue aiuta a sviluppare quelle che lo studio scientifico definisce impalcature emotive. La competizione tra fratelli inizia prestissimo in famiglia per accaparrarsi l'affetto dei genitori e poi continua quasi sempre in età adulta. Ma dal comportamento bellicoso di fratellini e sorelline, i genitori possono imparare qualcosa. I bambini spesso hanno la capacità di insegnare agli adulti concetti importanti, per esempio a metterci una pietra sopra e a perdonare, spiega al Times l'esperta. Di solito i piccoli impiegano poco tempo a risolvere le loro dispute perché vogliono tornare a giocare senza avere preoccupazioni. Mamma e papà, però, devono stare attenti a dosare le coccole. I bambini, anche prima dei 2 anni, capiscono immediatamente se il fratello o la sorella ricevono più affetto. E se l'amore non è equo, la competitività rischia di trasformarsi in risentimento. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Fratelli coltelli è meglio, litigando si matura, pubblicato dal Messaggero di lunedì 11 aprile, a firma di Deborah Ameri.